Io credo che l'Irlanda abbia già attuato una politica importante e in parte in effetti sorprende questo calo del rating che è stato deciso da Standard & Poor's. L'Italia stessa è già intervenuta con la legge finanziaria che nel 2011 dovrebbe già iniziare a dare dei risultati abbastanza interessanti e di conseguenza è chiaro, non scenderà il livello del debito complessivo dell'Italia, ma il rapporto deficit-PIL dovrebbe tornare su livelli più importanti. Più interessanti, scusi, quindi inferiori a quelli di oggi. Per quanto riguarda le prospettive dei titoli sia irlandesi sia italiani, io non ho particolari timori. Sicuramente cosa potrebbe accadere nel corso dei prossimi mesi? Potrebbe accadere che vi siano nuove fasi di tensione create ad arte dalla speculazione internazionale, perché è evidente che se la speculazione internazionale non riuscirà più a guadagnare sui mercati azionari, dovrà rivolgersi a un altro mercato, o lo fa sul valutario o lo fa su quello obbligazionario, quindi non è da escludere che vi siano interventi di nuovo pesanti a partire dalla Grecia, ma che toccheranno poi in maniera meno pesante, ma neanche trascurabile, sia gli altri paesi meno virtuosi. Quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se nel corso della parte finale di quest'anno si assista a nuove cadute delle quotazioni, anche se ritengo non saranno drammatiche. Quindi Drusiani, mi sembra di capire che concorda con il tesoro irlandese, insomma questo giudizio di Standard & Poor's è un po' troppo netto. Sì, e conferma una volta di più, se ce ne fosse bisogno, che l'area euro è sotto attacco non solo della speculazione, ma viene a una considerazione secondo me un po' minore, un po' più fredda nei confronti dell'Europa di quanto ci siano nei confronti degli Stati Uniti. Anche perché mi rendo conto che non è così semplice andare dal segretario all'economia americana e dire ma guarda, forse il vostro rating è troppo alto, vorremmo abbassarlo.